Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Leopoldo Mastelloni legge Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis. La maestra Pedani s'accendeva nel viso, spiegava la voce con una sonorità potente, tagliava l'aria col gesto, senza smodare, col vigore di una sacerdotessa ispirata. E si sentiva tutta l'anima sua in quella sincera eloquenza, si indovinava tutta la sua vita consacrata a un'idea, una gioventù che era come una lunga adolescenza severa, affrancata dai sensi, repugnante a ogni specie di affettazione sentimentale o scolastica, semplice di costumi e di modi, purificata e fortificata da un esercizio continuo delle forze fisiche, del quale erano effetto manifesto la sua salute fiorente, la mente limpida e l'anima retta e ardita. E quando con l'ultimo tratto ella fece passare nell'aula la figura del vecchio Augusto Ravenstein, fondatore della prima palestra del suo popolo, seguito dal corteo dei grandi ginnasiarchi tedeschi, benefattori di milioni di fanciulle e benemeriti della potenza e della gloria della Germania, scoppiò un'altra acclamazione fragorosa che scosse lei e tutta l'assemblea e la interruppe per un po' di tempo, durante il quale le sue compagne le si strinsero intorno afferrandole i panni e le mani e affollandola di rallegramenti. E allora essa corse fino alla fine, con crescente fortuna. Ritornando sull'argomento fondamentale del suo discorso, insistette sulla necessità che tutti gli insegnanti s'adoprassero a persuadere le famiglie altrettanto che a maestrare gli alunni. Alle maestre più che ad altri spettava quell'ufficio perché, esercitata dalle donne, avrebbe avuto maggiore efficacia la propaganda in favore di una disciplina in cui esse non potevano eccellere e che rimuoveva il sospetto dell'ambizione. «Rivolgiamoci alle madri», disse, «facciamo lor vedere, toccar con mano gli effetti meravigliosi dell'educazione fisica, che sono evidenti e infallibili come i risultati di una scienza esatta. Persuadiamo loro che la ginnastica è la forza e la salute, e che salute e forza sono serenità, bontà, coraggio e grandezza di animo. E se non bastano il ragionamento e l'esempio, preghiamole, leviamo loro di mano con amorosa violenza i fanciulli e le fanciulle deboli ed esangui, supplichiamole perché ce li lascino salvare dalle malattie, dall'infelicità, dalla morte. Ah, se potessimo trasfondere in tutte l'indomabile ardore che è in noi, e prima di ogni cosa abbiamo fede in noi stessi, una fede ardente e invincibile, che la nostra idea sarà un giorno l'idea di tutti, e che un nuovo sistema di educazione rifarà il mondo. Sì, io lo credo come credo nell'esistenza del sole che ci illumina. Una nuova educazione fondata sopra un esercizio perfezionato delle forze fisiche dell'infanzia e della gioventù preverrà innumerevoli miserie, risparmierà all'umanità innumerevoli dolori, falcerà mille vizi alla radice, agevolerà alle generazioni che saranno più buone perché più forti e più giuste perché più buone la soluzione dei grandi problemi attorno a cui s'affannano inutilmente ora le nostre menti malate e le nostre forze esaurite. Io credo, o colleghi, in questa umanità nuova che innalzerà ai grandi apostoli della ginnastica delle colonne di bronzo, ci credo, la vedo, la saluto, l'adoro e vorrei che tutti considerassero come la più santa gloria umana quella di vivere e di morire per essa. A quella chiusa si scatenò una tempesta. Tutti balzarono in piedi, battendo le mani e gridando. La Pedani, pallida e trafelata, si dovette alzar 3 volte per ringraziare. Quando l'acclamazione pareva finita, ricominciò. Tutti i filogenici dell'assemblea e delle tribune erano in visibilio. 2 o 3 oratori che sorsero dopo di lei non furono quasi più intesi. Quando la seduta fu chiusa, scoppiò un nuovo applauso. E la Pedani discese dal suo banco fra due ali di visi sorridenti e di mani tese, in mezzo a un gridio assordante di congratulazioni e di «Evviva!». L'immagine d'una creatura umana che godesse l'ultima ora d'ebbrezza sulla soglia d'un palazzo incantato, prima d'essere precipitata per un trabocchetto in carcere eterna, basta a malapena a dare un'idea dello stato d'animo in cui il povero segretario aveva udito quel discorso e quegli applausi, e visto accendersi a poco e quasi grandeggiare la figura della maestra Pedani. Quando ella ebbe finito, egli si guardò intorno, come se si riavesse da un sogno, e sentì tutto a un tratto una così violenta stretta di tristezza e di pietà per se stesso, che dovette fare uno sforzo per trattenere il pianto. In quel punto si sentì chiamare da una voce conosciuta, «Signor Celzani», e voltandosi, vide le mille rughe sorridenti del cavalier Pruzzi, ancora tutto vibrante d'entusiasmo, sotto la sua parrucca messa di sbieco. «Ha sentito, eh?» gli disse questi, sporgendo innanzi la pancia tonda. «Che maestre abbiamo a Torino! Non si può dire che il municipio spenda male i suoi danari!» E fosse per puro effetto d'entusiasmo, o c'entrasse anche il pentimento delle reticenze meditate con le quali, in quell'occasione memorabile, aveva tenuto sulle corde il segretario e gettato un velo misterioso sulla ragazza, fatto è che vuotò il sacco delle lodi, trattenendo per il bavero don Celzani che voleva uscire. Non era informato che da poco tempo, diceva, del passato della maestra Pedani. Essa aveva un lungo ordine di benevolenze. Aveva reso un servigio al provveditor degli studi di Milano, resistendo intrepidamente alla popolazione d'un villaggio che non la voleva, perché gliel'aveva mandata d'ufficio e, costretta ad andarsene, v'era ritornata con la scorta di una compagnia di bersaglieri e v'era rimasta, partita questa, con fermezza ammirabile. S'era fatta onore nell'estinzione di un incendio nel comune di Camina, aveva nello stesso comune salvato un ragazzo da un torrente, guadagnandosi la menzione onorevole del valor civile. «Che gliene pare?» disse infine, dopo aver ripreso il fiato. «Ora ha fatto onore a Torino per Diana, in faccia a tutta l'Italia. Abbiamo dei fastidi, è vero, abbiamo delle grandi responsabilità, ma qualche volta almeno si è ricompensati», e soggiunse rivolto verso l'aula già quasi vuota. «Ma brava, ma brava, ma brava!» Ma il segretario non gli badò quasi e lo lasciò subito. Discese le scale mezzo rintontito. Nell'atrio trovò una folla in cerchio e, indovinando che c'era nel mezzo la Pedani, si avvicinò. Era lei, infatti, circondata e festeggiata. Egli riconobbe le penne verdi del suo cappellino. La Pedani intanto stentava ad aprirsi il passo. Quando la folla degli ammiratori si fu un po' diradata, l'ingegner Ginoni si fece avanti con impeto e le disse, stringendole le mani: «Sublime, ma quasi convertito, non le dico altro!» Poi s'avanzò per complimentarla, strascicando i piedi, il professor Padalocchi. Poi venne il direttore. Non finivan più. Finalmente non le rimasero intorno che una ventina di maestre, mentre molti altri la guardavano da lontano, e allora, non visto, il segretario la poté vedere. Non gli era parsa mai così bella, così risplendente, così superba. Pareva che tutto il suo corpo vibrasse dentro a quel semplice succinto vestito nero, come se le corresse un fremito continuo da capo a piedi. Il rossore le era tornato, quel bel rossore delicato e diffuso che succede alla pallidezza delle grandi commozioni gradevoli e che è come il pudore gioioso della gloria. Il suo viso aveva un'espressione di gentile bontà femminea che il Celzani non le aveva mai veduta e che dava ai suoi occhi, alla sua bocca e a tutta la sua persona una nuova forza di seduzione. Ed egli la guardò, estatico, preso da un sentimento strano e doloroso, come se fosse già lontanissima da lui, di là da un immenso fiume, sul culmine d'una collina, dietro alla quale dovesse sparire per sempre. Quando ella si mosse col suo drappello di maestre, il segretario si nascose dietro un pilastro ed gli vide una scena inaspettata. Mentre la Pedani stava per metter piede fuori dal portone, le comparve davanti la maestra Zibelli e le gittò le braccia al collo piangendo e la baciò più volte con ardore. Don Celzani non udì le sue parole, ma comprese così per nebbia che era stata vinta e che veniva mossa da un impulso del cuore a rendere le armi e a chieder perdono di qualche cosa. La Pedani l'abbracciò e quella s'allontanò subito, voltandosi a mandarle un saluto appassionato. La Pedani uscì sulla strada e Don Celzani la seguitò a molta distanza. Andava innanzi lentamente, preceduta, fiancheggiata, seguita da uno stuolo di maestri giovani, i satelliti consueti dei trionfatori, che le facevano intorno un cicaleccio festoso, avvertendola di scansar le carrozze e lanciando occhiate qua e là, come per attirar su di lei l'attenzione dei passanti. Tratto tratto una di esse s'accommiatava, un'altra sopraggiungeva e si univa al gruppo. Svoltarono in via Santa Teresa e tirarono avanti, a destra. Il povero Celzani sempre dietro, sì, la voleva vedere finché avesse potuto, poi sarebbe andato a prendere la sua roba e partito da Torino. Per dove? Non sapeva. Per Genova, forse, per imbarcarsi. Dio l'avrebbe guidato, purché andasse lontano, a soffocare la sua passione in una dura vita di lavoro, a dimenticare, se fosse stato possibile, o se non altro, a soffrir di meno. Poiché veramente alla disperata vita a cui era ridotto non gli bastavan più le forze dell'anima, e dopo quel trionfo egli si sentiva più miseramente e, per così dire, più bassamente infelice che non fosse stato mai, poiché non aveva sentito per l'addietro che la differenza esteriore che era fra lei e lui, ma la riconosceva ora troppo superiore a sé, anche per lo spirito. Ella non aveva soltanto innalzato se stessa alla gloria, aveva precipitato lui nella polvere. La vedeva tra pochi anni, celebre, cercata da tutti, amata, sposata forse a un uomo bello, illustre e potente. Gli pareva allora un'insensatezza ridicola quella di aver osato di chiederle la mano, di importunarla, di inginocchiarsi davanti a lei e d'abbracciarle i ginocchi. Le amiche la accompagnarono fino al portone. Don Celzani si arrestò all'angolo di via San Francesco. Di là aspettava di vederla sparire per sempre, come in un abisso. Ma quando vide le amiche lasciarla e lei entrare in casa, una risoluzione improvvisa lo spinse, un bisogno irrefrenabile di dirle addio ancora una volta. Fece la strada di corsa, entrò nel cortile, si mise dietro a un pilastro e la vide avviarsi verso la porta interna e salire a passi lenti, voltandosi ogni tanto a guardare indietro, come se le paresse d'avere smarrito qualche cosa o rimpiangesse la compagnia che l'aveva lasciata, e sentisse ripugnanza dopo quel trionfo clamoroso fra tanta gente a ritornare in casa così sola per quella scala nera e solitaria. Le andò dietro in punta di piedi, adagio adagio. Quando fu al secondo pianerottolo, non poté più reggere. Si slanciò su, la raggiunse, essa si voltò, si trovarono di fronte l'una all'altro nel buio, lei sopra uno scalino più alto. «Il signor Celzani?» domandò la maestra. Egli ruppe in un singhiozzo e mormorò: «Sono venuto a dirle addio». Ma non aveva finito di dirlo che si sentì una mano vigorosa sulla nuca e due labbra infocate sulla bocca, e nella gioia delirante che lo invase in quell'immenso paradiso oscuro dove si sentì sollevato come da un turbine, non poté cacciar fuori che un grido strozzato: «Oh Dio grande!» Un saluto da Luca Scarlini e quindi alla conclusione della lettura di Amore ginnastica di Edmondo De Amicis un punto su questo racconto che rimane uno dei capolavori del secondo Ottocento italiano. L'immagine di amicisiana è realmente sempre in ricostruzione. Se per decenni è stato tendenzialmente l'autore nativo di Imperia come una sorta di vero e proprio araldo dei buoni sentimenti italici, dall'altra parte, come è noto, si è scoperta una sua vena assai diversa. Senz'altro la cosa più importante che da Amore ginnastica emerge è la capacità di raccontare un paesaggio e la sua vera e propria forma di anima. Il racconto di Torino è in sostanza il vero e proprio leitmotiv di tutta la sua opera. Esistono molte pagine in cui, oltre a Amore ginnastica, racconta luoghi specifici della sua città, d'elezione ed adozione. Ad esempio Il re delle bambole, straordinario racconto gotico horror, si potrebbe dire, che in realtà è un'intervista a un reale fabbricante di bambole che in un antro oscuro vicino a Piazza Vittorio a Torino realizza sostituzioni nelle creature bambolesche di principesche possibili committenti. Se in quel racconto si parla di bambole, in Cinematografo cerebrale si parla di vecchie contesse decadute, si parla anche, d'altra parte, di tutta una serie di personaggi di una città che vuole essere compassata a ogni costo e che nasconde sotto la superficie una serie di pazzie le più inconsulte e le più imprevedibili. Amore ginnastica è soprattutto un racconto della donna nuova. La donna, naturalmente, è il soggetto di tutta la letteratura della cosiddetta Nuova Italia dal 1880 in poi. Per questo motivo, quello che accadeva, naturalmente, è che in un mondo in cui la donna precedentemente era soltanto pensata come appendice dell'uomo o come votata al mercato matrimoniale, potevano darsi invece figure di donne intellettuali, di donne che mettevano in discussione in modo radicale il personaggio che loro era stato appioppato nel corso di secoli di elaborazione cattolico-italiana. Ed ecco quindi che proprio a Torino esplode il caso straordinario di una scrittrice che De Amicis ben conosceva come la Marchesa Colombi, che scrive questo raccontino altrettanto vivace ma più crudele che si chiama Un matrimonio in provincia, che tanto piaceva a Natalia Ginzburg che lo ripropose a metà degli anni 70, in cui si dà il conto di una donna bella ma povera che è costretta a sposare un uomo orribile, a vivere in una campagna raccapricciante tra risaie, perché ha il difetto terribile di non essere ricca. Ed ecco quindi come il personaggio femminile nelle opere della Marchesa Colombi, di un'autrice importante come la Lombarda Nera, Anna Teresa di Zuccari, o nelle opere anche della Contessa Lara e di altri personaggi che afferivano a Roma nel raccontare una nuova immagine di donna anche avventuriera, risuonano anche in De Amicis. C'è una punta di sadomasochismo, naturalmente. Se davvero la maestra Pedani, come De Amicis ci fa credere, ha un penchant, una passione per la Zibelli, si diverte anche moltissimo a prendere in giro questo imbranato fidanzato improbabile a cui pure alla fine in qualche modo si concede, ma proprio all'ultima parola. E l'ironia è in sostanza il crisma di tutta la storia, visto che la parola e la frase tipica con cui Celzani si presenta sempre, questa espressione teologica, Dio grande, risuona anche nell'ultima battuta, dopo che finalmente la Pedani lo ha zittito con un bacio. Quindi un racconto di una figura femminile che è molto lontana dalla maestrina dalla penna rossa e va molto di più verso le agitatrici socialiste dell'incompiuto e presentato solo postumo 1º maggio. In sorridente visione, una sorta di piccola proposta di una revisione delle iconografie maschili, in cui De Amicis racconta in sostanza come anche nei piccoli segni del quotidiano si possa capire come il tempo trascorra e come da un abito, da una posa del corpo, da una flessione ginnica, si possa capire che alla fin fine i tempi stanno davvero cambiando. Leopoldo Mastelloni ha letto Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis, postfazione di Luca Scarlini, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.